TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Neve in montagna, pioggia e vento, un piccolo inverno sul Friuli Venezia Giulia, arrivato il previsto fronte freddo e umido, neve in quota, soprattutto sul Tarvisiano, precipitazioni e vento sul resto della regione, Golfo di Trieste sferzato dalla bora con raffiche oltre i 100 km orari, annullata la disputa della Coppa Bernetti di Vela. La Società Filologica Friulana si è riunita questa domenica a Bertiolo in occasione del congresso sociale, il numero 102 nella sua storia. Nell'ambito della settimana della Barcolana a Trieste, il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri, campione europeo in carica nella 5 km in acque libere, ha incontrato i ragazzi. Basket, esordio amaro per la Pallacanestro Trieste che perde in casa contro Trapani nel debutto del massimo campionato. Oggi debutto anche per la Pudina a Reggio Emilia, in A2 Cividale in trasferta contro la Fortitudo Bologna. Nel calcio tra poco l'Udinese contro il Cagliari al Friuli, la Triestina impegnata a Novara. Le 12:16, buon pomeriggio e buona domenica da Giorgio Bearz per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che apriamo con la situazione meteo, perché oggi 5 ottobre si è avuto già un anticipo d'inverno in regione. È arrivato infatti nella notte, come previsto, il fronte freddo e umido, neve in quota soprattutto sul Tarvisiano e precipitazioni e vento sul resto della regione. Dalla mezzanotte flussi umidi da sud-ovest in quota e il vento moderato di scirocco sulla costa hanno determinato le prime piogge. Nel corso delle ore il fronte ha raggiunto le Alpi con l'ingresso di aria fredda da nord, l'abbassamento delle temperature e la prima spruzzata di neve sopra i 1500 metri sulla zona montana. Raffiche misurate in quota, 110 km sul monte Reste, 100 orari sul monte Prat. Sulla costa, in particolare a Trieste, soffia bora sostenuta con raffiche oltre i 100 km orari, pioggia battente e calo delle temperature. Una ventina finora gli interventi dei vigili del fuoco in città per cornicioni, infissi o rami pericolanti, sospese le corse del battello Delfino Verde che collega Trieste a Sistiana. Piogge intense anche nelle zone dell'Isontino, sulla fascia lagunare, sul Carso, con possibili mareggiate tra Grado e Lignano. Lo stato di allerta meteo gialla durerà fino alle 14. L'ARPA del Friuli Venezia Giulia prevede infatti un deciso miglioramento nel corso della giornata con schiarite diffuse, cessazione delle precipitazioni e vento che sarà in progressiva attenuazione. Ma vediamo ora quali sono i dati del meteo al momento. Il cielo è coperto su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 9,5 gradi, a Pordenone 9 gradi, a Udine 8, a Gorizia 7,5 gradi, a Tolmezzo 7 gradi, a Forni di Sopra e Piancavallo 4,5 gradi, a Sappada 2,5 gradi, a Tarvisio 1,5 gradi, sul monte Zoncolan un grado negativo, oltre un grado negativo, e sul monte Lussari meno 2. Sulla costa a Grado 9 gradi, a Lignano 8. Cambiamo argomento. La Società Filologica Friulana si è riunita questa domenica a Bertiolo in occasione del congresso sociale, che è il numero 102 nella sua storia. Si è aperta con la Santa Messa in lingua friulana nella chiesa di San Martino Vescovo a Bertiolo la celebrazione del 102° congresso sociale della Società Filologica Friulana. Accanto all'altare, in una cappella, il ciclo di affreschi risalente al 1535 e recuperati di recente, restauro raccontato nel volume Bertiul, curato dal bertiolese Andrea Tilatti, quasi 700 pagine con contributi spesso inediti di oltre 40 autori. Archeologia, storia, cultura, arti, geografia e ambiente. È quello che la Società Filologica fa appunto da oltre un secolo, essere al servizio della comunità, ha rimarcato Mario Anzi, l'assessore regionale alla cultura, e lo fa anche in occasione del congresso, pubblicando un volume dedicato al paese che la ospita, quasi un segno di ringraziamento. Per il centro del Medio Friuli, famoso per la produzione di vino, ospitare per la prima volta il congresso della Filologica è quindi occasione per conoscere le recenti scoperte che riscrivono la storia del paese, come gli scavi archeologici che hanno portato alla luce una necropoli alto medievale. Già da allora si ritiene che Bertiolo avesse una comunità viva e anche prospera, afferma la sindaca Eleonora Viscardis. Abbiamo voluto dare risalto aggiunta a un'altra peculiarità, che è l'ambiente delle risorgive. A Sterpo, un borgo che è una piccola perla, viene custodito nel parco di Villa Veniere un albero monumentale che ormai va verso i suoi 600 anni. Giornata aperta in musica a Bertiolo, non solo momento di valorizzazione della lingua e della cultura friulana. Per Federico Vicario, presidente della Filologica Friulana, è anche bello ritrovare un momento in cui la comunità si stringe per riconoscere la sua storia e la sua identità. Bertiolo, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Il comune di Udine interverrà nella notte con una disinfestazione antizanzare lungo Viale Europa Unita in un raggio di circa 400 metri nell'area dove si è registrato un caso di malattia da virus chikungunya. L'appello alla cittadinanza è di chiudere le finestre per il tempo necessario all'intervento, evitando ristagni d'acqua in contenitori, bidoni o aree abbandonate, così da ridurre al minimo la presenza del vettore. Vela, la disputa della regata valida per il 54esimo trofeo Bernetti è stata annullata dalla società organizzatrice Pietas Iulia a causa proprio del maltempo e delle forti raffiche che non hanno consentito l'arrivo degli equipaggi sulla linea di partenza e lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. Sempre a Trieste, in Piazza Unità, è stato inaugurato poco fa, nell'ambito della settimana della Barcolana, la replica del celebre battiscafo Trieste, ideato dallo scienziato svizzero Auguste Piccard. Il battiscafo nel 1960 discese fino sul fondo della fossa delle Marianne, conseguendo il record umano di profondità sotto il livello del mare, eguagliato solo più di 50 anni dopo. Alle 18, sempre in Piazza Unità d'Italia, all'interno del villaggio Barcolana, ci sarà il primo appuntamento delle giornate del battiscafo Trieste e la sua storia. E sempre nell'ambito della settimana della Barcolana, questa mattina era presente a Trieste il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri, campione europeo in carica nella 5 km in acque libere, vincitore di diverse medaglie alle Olimpiadi e ai campionati mondiali, intervenuto per una manifestazione con i ragazzi. Sentiamo allora Greg in questa intervista. In bagno di folla, mi dispiace di essere venuto nell'anno in cui è stata annullata, tornerò perché mi hanno sempre parlato bene di questa gara e insomma che ci si diverte, c'è un sacco di gente anche qua, quindi mi dispiace, però insomma c'è un bel movimento del nuoto, tutti molto appassionati, questo è bello. Tu sei uno che nuota sia in piscina che in mare, cosa preferisci dei due? Ma io in questo momento della mia carriera preferisco il mare, è più divertente, le gare ti danno anche più possibilità di esprimerti, un po' perché sono lunghe e poi dopo le strategie, le rotte, le onde, le botte, le rendono tutto insomma molto più imprevedibile. E questo mi piace. C'è anche l'aspetto legato all'ambiente. C'è un aspetto legato all'ambiente, certo, no? Cercare di fare gare nella maniera più ecosostenibile possibile, rispettare il mare, rispettare le spiagge, quindi è molto importante. E anche il riscaldamento dei mari. E anche il riscaldamento dei gare, del mare, che è una problematica che abbiamo riscontrato noi nelle ultime volte. A Singapore, i mondiali qualche mese fa, l'acqua era caldissima, quasi oltre i limiti consentiti, quindi questa è la vera problematica. Ti stai preparando per il 2026? Sì, sto preparando per il 2026, avremo gli europei di nuovo a Parigi. Sembra che rinuoteremo nella Senna, le gare in mare, diciamo, e quindi vediamo, però sì, mi sto preparando per quello. Speriamo che siano in condizioni migliori rispetto all'ultima volta. Speriamo, stanno continuando a pulire la Senna e speriamo. L'ultima volta non era, secondo me, fattibile, non era balneabile, speriamo che in 2 anni abbiano migliorato. Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo al calcio, le due regionali in campo all'ora di pranzo. L'Udinese ospita lo stadio Friuli, il Cagliari, appaiato in classifica all'11° posto con 7 punti. Calcio d'inizio tra poco, alle 12.30. Probabile la linea 3 in difesa con Davis e Zaniolo in attacco. E sempre alle 12.30, impegno anche per la Triestina in Serie C, sul campo del Novara, che è ancora a secco di vittoria. E ha una tradizione sfavorevole in casa con gli alabardati. Per l'occasione l'allenatore Geppino Marino dovrà fare a meno di Vertainen e di Tonetto. E siamo al basket, esordio amaro per la Pallacanestro Trieste, che perde in casa per 87-91 contro Trapani nel debutto del massimo campionato, dopo una gara tutta in salita e in recupero, ma che poteva anche vincere. Oggi debutto per la Pudine a Reggio Emilia, in A2 Cividale, impegnata in trasferta contro la Fortitudo Bologna. Troppo spenta e distratta per essere vincente come l'ambiziosa proprietà americana chiede, Trieste perde l'esordio in casa davanti a 6.000 tifosi contro Trapani, squadra di pari livello ma senza un americano. La sconfitta è molto più ampia di quanto dica il punteggio, perché i biancorossi partono molli, soprattutto in difesa, lasciando praterie tanto con il quintetto quanto con i subentranti. 9-21 con il canestro dell'imprendibile Allen, mentre l'attacco annaspa visto che Repescia fa la scelta più ovvia. Corre indietro per impedire a Trieste di prendere il ritmo con il gioco in transizione, approfittando così delle palle perse dei padroni di casa per segnare 27 punti nel solo primo periodo. I siciliani proseguono sulla stessa linea fino a poco prima del riposo, dove le triple dello spaesato toscano Anderson e di Ramsey, unita a una incredibile di Colby Rossa a fil di sirena, rimettono inaspettatamente la squadra di Gonzales in partita. Nella ripresa Trieste si aggrappa alla voglia grezza di Sissoko per cercare di rimanere lì con la testa, arriva a -4 con schiacciata di Brown, ma poi si perde nel rotazioni del coach. E allora Trapani vola più 15 con Petruccelli in avvio di quarto periodo e non sembra più esserci storia. Ruzier, unico a convincere per leadership, riporta però i suoi sotto la doppia cifra con un assist per Ramsey. E nonostante Gonzales si affidi nei minuti conclusivi al confusionario Ross, i giuliani arrivano in volata con il canestro proprio del play americano 78-81 e successivo all'alley-oop di uno spento Yutov. La rimonta sembra compiuta, a 27 secondi dalla fine attaccano per chiuderla. L'ala si prende un tiro che non va, ma la palla rimane in attacco. Ross regala la rimessa a Trapani che va sul più 3. Successivamente Ramsey, Spinger, Cidiacono e fa fallo in attacco e ancora Ross si addormenta e un incredulo Petruccelli è libero di involarsi verso il canestro che vale il primo successo stagionale 87-91. Non c'è tempo né per piangersi addosso né per allenarsi. Martedì è già tempo di Champions League a Würzburg. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti in regione: la prima e più antica chiesa di Udine, la pieve di Santa Maria di Castello, che sorge sulla salita del colle del castello, torna ad accogliere fedeli visitatori. Le sue porte si riapriranno alle 18 con il rito di benedizione impartito dall'arcivescovo Lamba, seguita dalla processione. Seguirà la processione con la croce della chiesa madre di Aquileia e alcune croci delle pievi storiche dell'arcidiocesi e delle parrocchie della città di Udine. E in occasione della festa di San Francesco d'Assisi e della giornata mondiale degli animali, Trieste ospita una nuova edizione dell'Animal Festival in programma in Piazza Verde. Alle 16 si esibiranno i reparti cinofili del Corpo Forestale Regionale e della Guardia di Finanza di Trieste. Seguirà la presentazione ufficiale dell'Animal Festival 2025 e la riflessione dal titolo Tutela della biodiversità carsica, un impegno condiviso. Seguirà alle 17 la benedizione degli animali. Ed è la giornata conclusiva anche di Art and Food a Pordenone, festival che propone storie di cibo e buona tavola. Tra gli eventi, laboratori didattici per bimbi e ragazzi organizzati dal Palazzo del Fumetto presso la Loggia del Municipio. Alle 19 a Palazzo Clefish, con l'esplorazione del sottobosco friulano, il percorso Seduzione Vegetale di domenica 5 ottobre, grazie alle proposte di chef Riccardo Gasperini e Federica Lepi di Moore, resident chef americana di Electrolux Professional. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Federico Comar e Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Imma Soliman. Ora la radiocronaca diretta della partita di calcio tra Udinese e Cagliari dallo Stadio Friuli. A tutti voi l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.